9:30. Beh, i giochi sono belli quando durano troppo anche. Mi fa questo, non mi piace giocare con l'altro, quindi gioca con lo Sprinter, con Mike. E beh, sì. Non lo sai così. Ma aspetti, arrivo. Però non so quanto arriva perché lo Sprinter non funziona. Attento Giovanni, Giovanni Littiri. Sì, avanti. Chi era la famiglia? Giovanni, Giovanni, mi copi? No, non c'è Giovanni. Giappe, tu sei? No. Chi era? No, non lo so. Ogni tanto se ne sento uno nuovo. Stavamo cercando Giovanni. Attento, Giovanni Rittiri. Non c'è Giovanni Rittiri. Dov'è tutto il giorno cercandolo? Non c'è, non c'è. Venduto, uia uia. Scusa se sono indiscreto, ma cosa c'è tu, una macchina rossa? No, no, no, un monovolume, grigio. Va cappa, allora mi sono sbagliato. Eiaia, no, non sono io. Perché l'altra volta ho visto una tipa che c'era una Ford, una Fordia rossa, non so chi sia. Oh, boh, perché c'era la lanterna al baracchino? Che cazzo è questa cosa? No, no, la mia poi è un'antennina che non si capisce bene. Una rossa? Chi non sa, non lo sa che è di baracchino. È un'antenna che non si sa se è di baracchino o no, cioè di piccolina a piccolina. La vai. Mi lo mia Gianni, mi lo mia. Buonasera a tutti. Antonio, troppo curioso sì però, No, troppo curioso già, non è si tratta di essere troppo curioso. Ho visto questa qua un giorno, questa macchina qua, ho detto ma cosa arriva, no? È tutto qua, non è niente. Stavo scherzando, non mi conosce ancora. Ciao. Ciao, già. Adesso stai rompendo la scarpa, se stai a bombolino, se no te lo do io il tanto a te. Tu, Mudo, da dove sei uscito? Da lavorare. Bravo, ritornaci allora. Mortacci tua. un altro po' di movimento, Natali. Ciao Natali. Ciao a tutti, ciao Rip. E lunedì mi tocca cambiare il turno a un collega e deve fare roba e quindi sono di mattina. Sempre di mattina, sì. E lunedì li prendo di mattina. Sono più. Aio, carno, questo passo. Tutti avanti a Zarrano. Dove c'è? Sant'Orsola. E allora? Chiappa. Beh, ti arrivo, forse sono lì. Ma sei chiaro? E io, Tattalino. Adesso passo anche a Gianni, mamma non... Ma cosa passi, cosa passo? Ma cosa passi, zitto, zitto. Lascia stare a bombolino, ti ho detto, già te ne puoi abusare, eh? Certo che mi passa, ed è pure più vicino, di base da te. Mira, ma te s'antenna vedi? Vabbè, cosa c'è? Ma lui mi ha detto, lo passo, io provo a passo. Lo passo io, ti passo io. Tu non riesci. Io sono più pio. Zappa. Non c'ho niente qua, se no avresti visto. E perché io cosa c'ho? Bombolino, io non c'ho nulla lo stesso, sono con 4 watt. Sì, senza ombra di dubbio già, ma tu vai l'antenna, tu vai la manta alta 7 metri, io c'ho una Stormo che è ben diverso. Però con un aiutino ti do qualche mattana, non è che... Puzza di Sprite. Sei l'interno? Ti do di Sprite. Io tengo fino a 500 watt, ne metto 450, tiene benissimo, e vedi. Oh, e ci metti anche il giambariscolo, tac. Sì, man mano che sale però, te ne do, ti do qualche po' di mattana, eh. Antonio, non parlare, se attacco io tu non fai di più. Chiappa, te ne approfitti solo perché c'è un'antenna piccola. No, anche con la grande. Non, non parlare così. Io non ne ho mania della potenza, non me la fotti nuda. Tu hai detto solo, lo passo io, ho parlato sempre, ti ho passato io. E poi hai detto perché hai l'antenna. E se mi passavo, mi dicevi, ah, visto che ti ha passato. Chiappa, sto scherzando, naturalmente. E no, già, se avevi avuto l'antenna in un'altra cabiciuria, non lo so, Sempre da venirsi. Chiappa, a me sono fatto in diversa maniera, non mi ha fatto niente di nessuno e via, attacco me. Se avrei avuto l'antenna sul tetto. E metticela tu, cosa stai aspettando? Sfonda tutto e mettici una bella antenna. Chiappa, no, lasciamo il mondo con me. Ma se lasci con me non ci sarà mai un'innovazione, quindi bisogna innovare sempre qualche cosa, ci vuole innovazione nel mondo, se no rimaniamo sempre fermi, ci vuole qualcuno sempre più intelligente, qualcuno che scopra qualcosa, e anche un'antenna in più non fa male, vero? Allora, adesso avrei piatto un'altra, vuol dire sono due. Grazie. No, perché io qua, se avrei avuto l'antenna, sono tutto libero, Ho tutte le parti favorevoli, pensa tu. Qua è forte. E anch'io se avessi avuto un paio di milioni di euro non sarei andato a sfasciarmi la schiena dove sto andando ogni giorno. Chiappa, lo so già che... però prima bisogna fare un piccolo accorgimento per poterla piazzare il circo. Perché? Bisogna prendere alcuni inquilini e buttarci dalla finestra e poi si può fare. E fallo, cosa stai aspettando? Noi adesso ho preso la direttiva, sto aspettando il tubo, ci metto la direttiva con il motore rotante, poi non mi va bene davvero nessuno. Se avrei avuto tutte le possibilità di soldi e tutto quanto, disponibilità di tutto, avresti visto la stazione che avrei fatto. Lo so. C'è sempre quel sé. Anche io se avessi avuto i soldi mi sarei comprato una Rolls Royce. Grazie. Invece non ce l'ho e mi tengo la macchinetta io. Anche io se avessi avuto un paio di milioni di euro non ci sarei andato a lavorare. Sto avvicinando che stai. Perché ci vede? Grazie. Cos'è questa storia, o già? È un lineare, è la marca di un lineare, si chiama Jumbo. Non me lo ricordo neanche, la verità. Aristocrat. Jumbo Aristocrat. Ma come? Lineare si chiama. Aristocrat. Così. No. Aristocrat. La caro cantare già, mi cazzo di nonna e mi ritaglio subito il tuo vero chi va. Sì. In affesso. Appa, 9.30 spaccate qua, eh. Chiama, chiama. Direzione QTH. Appa, mi stai toccando il 30. Bello. Direzione Grande Letto. sciappa, con il dirugabitare, di gubbetti e ti rompi. No, no, che pena. Perché il ciambalista, crack, è di vicino. Rita, ci riesce a dirlo? Ehi, aristocrat. Giusto? Sì. Ristocca. Aristocrat. Aristocca. Ecco, bubu. Cra, cra, come cra? Come rara, cra, cra. Non ti ho fatto bene, tanto non hai, che cazzo è l'assunto? Che punto? No, Valerio, lasciami da ieri, te lo voglio dire, Luca, io, Pierpaolo, non so che cosa, stavo parlando di Paolo e è uscita questa parola qua. E Luca se l'ha addirittura se l'ha scritto per leggerlo bene per lui. Addirittura? Perché non riuscivo a dirlo? Era uno scioglilingua per lui. Aristrocca. Provo a dire cose più strane, Luca. Poi aspetta, che cos'era l'altra parola? Non me la ricordo più. E comunque ci sono delle parole che se tu le ripeti tante volte non ti sembrano strane. Le ripeti, se cavolo, non è giusta, non è giusta, no? Non si capisce bene se è giusta o no. Due limoni, in fretta. Un limone, mezzo limone, due limoni, un limone, mezzo limone, due limoni. Sì, è continuo. Vogliamo continuare, non te lo dico. No, continua, non sono di lì. Vero. Dillo a tu. E tu di non di questa signorina, 33 Trentini, entrando, 33 sotterranno a Trento. 33 Trentini, entrando, sotterranno a Trento. Sbagliato. 33 Trentini, entrando, 33 sotterranno a Trento. 33 Trentini, entrano tutti e 33 Trentini, non da 30. L'ho preparata. Schiato di foglioni, tutti, tutti i foglioni. Vieni, amici, per fare i capelli, mi dice. Eccoci, su casino, buongiorno. Gianni, dillo in fretta. Un piatto di foglioni, cotti, cotti foglioni. Di foglioni, cotti, cotti foglioni. Dillo veloce. Ecco. Quanti? Ma chi serve una casa dai petecchie? Di cosa? Petecchie. E cosa so? Medica con le orecchie. Mamma. Comunque, con le scelte di lingua. Diciamo che sono bravino io. Chiamami Lillo in fretta, mia sorella ha una gamba grassa. Tua sorella ha una gamba grassa, tua sorella ha una gamba grassa. Lillo per 5 volte. No, no, no, no, no, mi stava già fregando. Però io ho detto tua sorella, non ho detto mia sorella. Devi dire mia sorella. Ma è una gamba grassa. Lì, non venire a parlare. Si stava fulminato tanto, non ha già detto. Vabbè, non lo sai, magari tuo padre ha fatto il fanfarrone. Può anche darsi, vabbè, qui io non ne sono a conoscenza, né che abbia figlie, né che abbia sorelle. C'è una lingua puliti, vogliamo. Vabbè. Tanto se ne sente qualcuna. Comunque era sopra quella di poco fa, eh. Ripeti, 33 Trentini, entrano 33 Trentini, entrano a 30. Mentre? 33 Trentini, entrano 33 Trentini, a 30. 33 Trentini, 33 Trentini, stessa cosa, ma è... come si spiega? Antonio, allora questo scioglilingua ci riesce a fare? Non è difficile, Rita, dillo tu, dai. No. Anzi, questo break. Ciao, Gianni. Carlo. Poi? Oh, momento! Gianni. Sì. Bianco. Campa. Rosso. Voce diversa, Paoletto. Cosa ti hanno fatto? Qualche lavoretto, Paoletto? No. Bali. Ah? Il pelo di Natalino. Buia. Come si è rifitto? Quasi a casa. Quasi al ghiottolo. Iaia. Cappa gappa. Questa è una bella doccetta e poi riposo quotidiano. Te la stava facendo il mazzetto, ti stava facendo recuperare il torpedo che non ha lavorato. Mortacci tua. Ma te lo faresti il bis stasera? Come? Un bis stasera te lo faresti? Lavora anche stasera? No, non saranno. Sapere quanto più mancava pure di a rientrare stasera. Per far vedere che sei volenteroso. Ah, ma io non sono volenteroso. No, mi sta richiamando. No, negativo. Ripeti, c'è torrita in bianco. Ciao. Ho sentito la voce di qualcuno. Di chi? No, sembrava Paoletto. Tu vedi? Ah. Ma perché Paoletto, mascalzone, mi volevi fregare, no? Cosa? Mi volevi fregare. Sì, io ho col microfono normale. Oggi già mi ha fottito un figliolo, ma arrivi della... la bolletta al telefono, non mi ha quanto. Quanto? E poi vado via. 300 euro, 400 euro, va. 319 euro. Certo! Tutte telefonate a cellulari. No, allora c'è da mettere la regola. La regola? Io mi sacco tutto, la regola è quella. Se ne tolgo gli apparecchi pronto, così non può telefonare. Quando devo telefonare lo attacco. Zappa. Ma sei tu però che dovresti usare un po' di durezza, perché insomma tutti questi soldi sono troppi, Beh, è normale che la uso. C'era già fatto cassettone con le durlanda che fissai, calmati, di lungo calma. Beh, giustamente, hai ragione, cioè, ma sto scherzando. Oggi ti ho dovuto travagliare per le telefonate sue. Non va bene. Va bene. Vabbè, ha fatto una cosa un po' così, da. Io spero che non lo faccia più. Ma non era mai successo, capito? Cioè, ma io telefonavo a mamma al telefono. Tu al cellulare non devi telefonare a casa, lo sai che si spende 50 volte di più. Caffa, che bisogna avere pure tanti telefonati vedane. E un beh, tutto cellulare, Tutto per cellulare, perché la telefonata normale è a costo zero da noi. Praticamente abbiamo un contratto che tu puoi telefonare il telefono normale e non paghi niente, paghi sempre lo stesso tanto tutto il mese. Caffa, comunque già, se è arrivata così tanto vuol dire che c'è stata anche molto parlando, Non è che... No, ha fatto più telefonate agli amici, alle amiche, capito? Quando noi non ci siamo ne approfitta del resto, adesso noi togliamo gli apparecchi, così almeno non le tocca più. Yeah. Vabbè, ha fatto un gesto che magari non se ne è neanche accorta, va. Sai com'è. Ma si è fatto prendere troppo dalla mano. Gaffa, beh, un po' tutti siamo così, Lo so, ma non va bene, perché questo mese c'erano molte spese, quindi non ci voleva che questa spesa qua. Assicurazioni, due assicurazioni, tre bolli, e condominio 250 euro, cioè che se non lo fai solo per pagare le cose. Oh. Lo so già, però purtroppo ha fatto una cosa così, ma spero che non la faccia mai più. Me lo auguro anche io, anche se non fa, ti si dà un baccone, dal telefono che anche tu. Già, non la fa più, basta diglielo. Detto, detto. Non glielo sono detto tranquillamente, però. Ti ho detto molto incazzato. Non glielo ho detto tranquillamente, perché ti ho detto se dovevo andare a battere per pagare il telefono lì. Lo so, lo so. Sono cose un po' scoccianti, soprattutto per portare tanti soldi. Ma poi anche sono soldi che fossero stati spesi bene, che non avrebbe detto nulla, ma sono spesi incazzate, capito? Telefonate che non sono manco utili, le telefonate che si fanno con gli amici, se le possono fare al cellulare, paghi quel tanto lì e via, quando si scarica la scheda, se ne hai soldi la carica, se no la si scarica, però non puoi usare quello di casa e far fallire una famiglia, no? Scappa, lo so, lo so. Magari non va via denaro, un telefonino, tante altre cose, e ne approfittava a farlo di lì. Vabbè, contro un'altra persona che conosco io, che alla madre gli ha fatto pagare, non ti dico quanto, tu non ci crederai mai. Allora, 12.000 euro di telefonate. 12.000 euro di telefonate. E cosa Marazzucci ha fatto? Telefonava a quei numeri osi. Ah, quei numeri strani. E allora, una persona che conosco io, la madre quando vedeva chiuso in camera diceva, apri, no, sto telefonando la mia fidanzata, non si può avere manco un attimo di pace. E invece stava ore e ore attaccando agli singosi. Ed è arrivato un conticino a casa. Allucinante, stava ore e ore amoreggiando con questa qua. Adesso per dire, solitamente la Telecom dopo che viene speso certo tanto ti avvisano, invece le non l'hanno manco avvisata, se l'hanno dovuti pagare. Vabbè, certamente quelli là i soldi li vogliono. Ma non c'è verso, siccome questa persona che... questa persona qua non è nemmeno giusta di testa, capito? Quindi gli hanno detto che non era capace di intendere di volere né niente. Niente, no, non c'è stato un verso, è dovuto pagare lo stesso. Beh, ecco là, però so che c'è un cosa che te li possono disattivare, questi numeri speciali, no, non te li fanno andare. Bisogna, mi sembra, parlare con la tele e come te li toglie tutte queste numerazioni speciali, no, e non anda. Quando fai il numero no, non va. E comunque con la volontà li si era pagati un'altra volta 1.000.000 euro e un'altra volta 12.000. Cioè si è andato di pagare in 2 mesi 12.000 euro, sai quanto so. Cioè ha fatto telefonate, perché questi tipi qua mi sa che ti rispondono anche dall'estero, capito? Secondo dove ti rispondono paghi una botta. Chiappa, lo so, lo so, purtroppo. È perché fanno telefonate anche dall'estero. Cioè per esempio magari il numero, che ne so, ti fanno credere che sia in Italia, magari in Brasile, usando il testo. I costi sono alti già dall'Italia, 850 euro, ma 8,50 al minuto, 9,50, 10 euro, capito? Tu immagina, a 10, ogni minuto 10 euro, 10 euro, 10 euro, che tutto ci ricorda. Il vostro credito è su un conto, Giulia, un conto, e purtroppo anche se dicono non intendere volere, quindi non ne ha fatto niente. Ora dicono, tu hai fatto telefonate, li buoni pagate, boh, e basta. E quella lì quando ti risponde la Telecom. Intanto ha detto che doveva pagare, poi se riusciva tramite avvocato o cose del genere a farsi liberare, va bene, però se, lo, se voleva che non staccasse il telefono doveva pagare quella roba lì. Giappa, ma arrivato a un certo punto c'era un migliore così e tutto canto che ne avrei staccato il telefono. Tanto ogni giorno ci sono i telefonini e ti rintracciano ogni posto dovunque tu sei. No, non è questo di staccare, no, gli ha messo il numero di codice davanti. Se devi telefonare il cellulare devi fare il numero di codice, se no non ne puoi telefonare. E se non fai questo numero non ti fa telefonare il cellulare. Giappa, lo so, lo so. È proprio per evitare di fare queste telefonate qua. E ai. Babbo, da, che ore sono? Già ora di andare. Che ore sono? È 3:10. Oh, che rottura di palle, mamma mia. E oggi ho cammellato forte. Ma guarda, un casino, cioè, quest'ora ci passa, ma quando sei 30 kg non ti passa mai, no? E quello sì, già lo so. E poi mi oggi ti ho pensato, perché ho visto un bombolaio scaricato da un camion una di quelle bombole grandi grandi, ha messo una specie di telo in terra e l'ha fatta scendere di colpo, poi la faceva rotolare, rotolare su se stessa la bombola per scaricarla, no? In un ristorante la stava scaricando, c'era stata da penso 20 kg, 25 kg, l'ha fatta cadere di colpo sopra questa cosa che ammortizzava, forse era gomma piuma, boh, l'ha messa in terra, l'ha fatta cadere dal carro, boh, era arrivata sopra le braccia, poi l'ha fatta roteare, si la portava sopra il marciapiede. Cioè, mi stavi spiando? Ah. Stavi spiando? A chi? Tu. No, spiando, no, stavo passando col furgone, ho visto questo qui e mi ha fatto ricordare a te, tu mi, il lavoro che fanno Pierpaolo e Antonio. Giappa, io ho fatto una cosa del genere oggi, però non era da 25, era da 62. Come fare che si mette in terra, cos'è, per attutire il colpo? Per non buttarla di colpo, cazzo, non è un casino. Ma dove mi hai visto? Dove hai visto? Ho portato a Torres, in piazza. Forse stavo andando al ristorante Garibaldi, probabilmente. Ma praticamente è sceso da un camion grande, quelli che portano le bombole, no? Ma è enorme questa, allora era 60 anche quella lì. Era un bel grande. Una scappa a Porto Torres. No, perché io sono arrivato con la moto e ho fatto una cosa del genere oggi, ma era da 62 kg e meno, era da 25. No? Ma che ti stavo dicendo? E poi come hai fatto? L'hai caricata di spalle? No, l'ho buttata lì in terra, di spalle. Tante da buona andata di parte, no? Già ci riuscirei, ma no, proprio quella no, da 62 kg è alta quanto è meme. Non so così ti conviene, pesa 120 kg quella bombola. Vabbè. Ehi, comunque, sempre sono me pesanti. Lui la faceva roteare, se non l'ha portata su marciapiede, sempre roteandola. Hai capito come? Tipo come guidare il volante. Capa, no, lo faccio anch'io un bel volte. So io, secondo i punti dove è, quella da 25 me la metto sulle spalle e ce la porto. Non ne ho problemi. La faccio ruotare anch'io, ma bisogna essere bravi per farla ruotare anche. Poi come la faccio ruotare io la posso andare a 1000 se voglio. Cosa va a fare ruttare? Ruttare, ruttare, la faccio andare a mille. Cappa, cappa. E poi c'è quello come la fagia rimane sempre ferma, girato per blu. Ma no, sicuramente mi l'avete girato di bomboli. Io ma che gioia di bomboli grassa. Le bomboli, un po' fumate di Veneto, di vero. Sì, vengo con la cesuia. Cosa ti va a fare? Sì, sì, sì. E se lascia fare a bombolino, già lo sai. Aspetta, già ti puoi mettere. Ah, mettiti con me che sono più grande di bombolino. Aspetta che mi massaggio la pancia. Certo, fai come ha detto un rato. Ma te lo immagina questo, a questo Gianni doppio rum. Rompendo le scatole a bombolino, boh. Sì, già non rompe le scatole. Avanti. Ciao Gigi. Ciao Natali, ciao Gianni, dove lui è tutta la ruota, la compagnia. Uè Gigino. Ciao lui. Ciao, ciao. Ciao Luigi Vulcano. Evidentemente non si sente. Dove sei lui? Discesa Florina, Natali. Discesa Florina. Ma mi senti Gigino? Rita, che ti ascolto. Succedono con 2 watt e mezzo, neanche. E adesso è più forte con 2 watt e mezzo dell'altro. Ciao lui, mi senti? Si sente un po', prova a vedere quanto il segnale. Io? Ma mi senti? Santiago 2, radio, ti ascolto bene. E io quando ti arrivo, Gigino, quando ti arrivo io? 2 e mezzo. E io quanto ti arrivo oggi? Tu 2 e mezzo, quasi 3, tu sei quasi 3, eh? Ah, con l'omologato, sei qua. Sai, io sono in movimento, dipende quando parlate voi, io sono in movimento. Vabbè, allora stai Corina, se ne sapete. Florina. La Florina, se già lo sento. Ma su Pira c'è lui la vendetta. No, lui sente a me. La Sisa, dritto, la Sisa lo sai. Eia, eia, lui questo barattino ha 32 anni. Ah, è quasi te, quasi quanto è te quello lì, eh. Eia, eia. Gigi. Non faceva girare tuo zio, gli attaccava anche la segretaria dietro. Eia, eia. Gigi Vulcano, senti qua stazione bombo. E come si chiama? Non sa Rita, Emilio, Emilio, di cosa? Guarda, parlava con l'accento l'accento perché non è sardo, però c'è, anche se è cresciuto qua in Sardegna, c'ha l'accento continentale quando parla. Emilio, come faceva a dire, non sai di cosa a Baracchino, Rita? Non lo so lui, non lo so. Lascia la miseria, ragazzo. C'ero, io e tu eravamo lui. Claudio mi pare che c'era, ti ricordi che c'erano tutti quei 3 anziani che modulavano? Quello robusto che parlava l'accento continentale, quello lì è Emilio, lo zio, ma adesso non me la attivo, adesso non me ne ricordo più. Manco io me lo ricordo. Comunque, eravamo, io e tu eravamo, e tu, quando c'erano dei signori là. Natali, mi sa che c'era anche Natali, che c'era anche Claudio, capito? Che c'era Spaggia, e c'era coso l'altro, Emilio. Ma vuol dire se non si risponde non si sente. Allora senti a Bombolino, dici. No, c'è una radio.